try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Sono le 6:30, siamo qui in compagnia di Monica. Ciao, ben trovata. Ciao, ciao a voi, ciao a tutte. Hai affrontato il traffico cittadino, complimenti. Sì, sì, ma siamo assolutamente sopravvissute. Esatto, quello è l'importante del resto. Allora, Monica, parliamo con te ovviamente del sito zeroviolenzadonne.it. Abbiamo annunciato, insomma, che ne avremo parlato. Noi del martedì facciamo un ampio uso ovviamente di tutti i siti, blog che le compagne, le femministe mi fa e molto lesbiche piacere come te gestiscono. E quindi, vabbè, lanciamo anche un appello a chi ha dei blog o dei siti e vuole passare da noi come te, insomma, a descriverli, certo, e a raccontare la tua esperienza, a farlo ovviamente. Allora, zeroviolenzadonne.it, intanto come nasce? Che idea è? Com'è che... Sì, è nato 2 anni e mezzo fa come progetto di informazione sulla questione di genere, o meglio, diciamo, noi abbiamo messo al centro la questione della relazione tra donne e uomini per attraversare e analizzare tutte le forme di discriminazione e di esclusione sociale, e soprattutto per mostrare i piani di intersezione che ci sono tra di loro. E, quello che noi cerchiamo di fare attraverso innanzitutto una rassegna stampa quotidiana su tutta quanta una serie di tematiche è di essere al servizio di un cambiamento sostanziale nella relazione tra donne e uomini. E vogliamo parlare di tutti quanti quei temi che la politica espelle, che la politica non considera politici e che noi invece riteniamo che lo siano, perché attengono poi prevalentemente alla vita delle persone in carne ed ossa. E quindi parliamo di violenza, parliamo di violenza sulle donne, di violenza sui bambini e sulle bambine, che noi riteniamo essere uno dei principali fattori di disgregazione sociale, e parliamo di economia, di politica in un'ottica di genere ma anche generalista, e di diritti civili, di cittadinanza, di migranti, di razzismo. Sì, infatti poi invitiamo, anzi chi ha l'ascolto e un computer davanti, a andare su www.zeroviolenzadonne.it, perché lo navighiamo un po' insieme e avremo modo di vedere le varie sezioni e quanto in effetti è vario e vasto il vostro lavoro. L'arcipelago. Sempre parlando, diciamo, adesso del progetto, noi facciamo tutte domande che ovviamente, perché riguardano anche noi, insomma, la fatica di tenerlo in piedi, eccetera. Quanti siete, come lavorate, come... Guarda, lavoriamo, siamo 6-7 persone, lavoriamo assolutamente scoordinati e scoordinate tra di noi. Questa è una garanzia, ovviamente, però è la verità. E vabbè, dai, la confusione crea sempre. A parte gli scherzi, non avendo la possibilità di avere una vera e propria redazione, lavoriamo dai nostri computer e quindi, diciamo, lavoriamo attraverso una fitta rete di mail tutti i giorni per cercare di mettere insieme ovviamente la cucina quotidiana del sito. Decidete però, i temi diciamo insieme. Sì, no, assolutamente, però la rassegna stampa è molto ben organizzata, appunto in persone, esatto, che la fanno stampa, diciamo con dei turni ovviamente ben distinti, lo stesso per le news. Io mi occupo prevalentemente della parte di raccolta dei pezzi, della parte editoriale, poi insomma c'è chi si occupa di raccogliere tutti quanti i pezzi migliori che vengono pubblicati dalla rete, dagli altri blog e dagli altri siti, le cose più significative, quelle che appunto poi come sempre secondo noi almeno aiutano a spostare il senso comune o ad aprire nuovi temi, ad affrontare anche in maniera delle volte spinosa e contraddittoria le questioni, però che riteniamo siano utili per formare questa coscienza civile che noi riteniamo fondamentale per produrre, provare ovviamente, semplicemente provare a produrre uno spostamento, un cambiamento. Ovviamente voi poi vi avvalete anche di collaborazioni esterne, anzi possiamo invitare chi poi visiterà il sito a scrivervi. Sì, assolutamente, da questo punto di vista pensiamo che gli editoriali e i contributi siano un laboratorio aperto. Diciamo che dobbiamo essere solo d'accordo sui fondamentali, ecco, poi per il resto il sito è assolutamente aperto, i contributi di donne e di uomini sono ben accetti. Sì, noi lo usiamo perché appunto è un sito molto cioè legato all'informazione, anche con i commenti e a spazi ampi anche di analisi, però sì, diciamo noi per esempio usiamo molto la rassegna stampa, è un sito pensato quindi anche un po' diciamo in riferimento alle giornaliste o ai giornalisti, si potrebbe porre come fonte di informazione. Sì, assolutamente, infatti noi crediamo molto ed era un po', arrivo anche al discorso dell'appello, è molto importante per noi restituire la funzione sociale e culturale che ha l'informazione. Sappiamo che viviamo sempre una crisi praticamente endemica e costante del nostro sistema di informazione in quanto a libertà, in quanto diciamo alla capacità di coprire i temi che poi riguardano veramente la vita delle persone, però nonostante il precariato, nonostante la dittatura all'omologazione che molti giornalisti e giornaliste soprattutto vivono all'interno delle loro redazioni, noi vediamo facendo la rassegna stampa tutti i giorni con questo osservatorio che riescono nonostante tutto a produrre anche dei pezzi delle volte veramente ottimi, e questo io lo direi per tutte le testate diciamo nazionali. Quindi un po' l'obiettivo di Zero Violenza Donna è quello di costruire, come voler costruire un giornale a sé stante che diciamo raccoglie il meglio anche dello sforzo che fanno queste persone rispetto a questi temi Quindi selezionate diciamo quello che ritenete. Sì, quello che riteniamo più utile, sì. Va bene, allora io direi magari facciamo un piccolissimo stacchetto di musica per darvi il tempo di aprire il sito zeroviolenzadonne.it e poi così lo navighiamo un pochino insieme. Yeah, make way for the, make way for the SOV. Yo, make way for the SOV. Yo, ladies, summer in time, let's go. Random, make way for the SOV. Everybody in the club getting tipsy. Oh fuck that, just wine like a gypsy. Can't see straight like I got one eye. Your bottle open, oh my. Let's. E allora abbiamo qui aperto zeroviolenzadonne.it, vabbè l'occhio cade quasi subito sulla rassegna stampa, ma perché noi appunto come detto la utilizziamo, e zeroviolenzadonne.it è strutturato con un menu diciamo vabbè in alto anche molto ricco, c'ha la rassegna stampa, appunto gli editoriali, diritti delle donne, statistiche, controimmagine, centri antiviolenza, non li nominiamo tutti, sì, sì, insomma anche aumentano continuamente. E poi c'ha appunto le news, quelle di cui parlavi, che... Esatto, che raccolgono diciamo le proprio tipo flash le informazioni e cercano di essere in tempo reale le informazioni che possano diciamo aiutare le persone proprio ad avere, ecco, le informazioni di base su tutto quanto si muove a livello di attualità, di politica, purtroppo di violenza e quant'altro. Quindi sì, vedo subito che c'è anche il documento pronto, già subito messo lì delle ribellule. La crisi non è neutra, sì. Nelle news, quindi insomma andiamo sicure, aggiornato all'ultimo. Poi c'è Oggi sulla Stampa, ecco, questo è un lavoro, dicevi, impegnativo. Esatto, sì, diciamo che la rassegna stampa mi fa veramente piacere avere questa opportunità, grazie a voi, di spiegare come viene di fatto elaborata. Una persona sciagurata ogni mattina, dal lunedì alla domenica, a chi tocca anzi grugni, come si dice a Roma, praticamente apre un abbonamento online telematico che noi abbiamo con Eco della Stampa e passa in rassegna una media di 300-350 articoli ogni mattina. Lo si fa di solito nell'arco di due ore e mezzo. C'è qualcuno che sfida il tempo, lo fa in un'ora e mezzo, faremo anche delle gare a breve. No. Dei neutrini. Sì, esatto. Sì, sì, che lasciamo perdere le facili battute sulla ministra Gelmini. Sì, che corrono in quel esatto, tunnel e vanno. E quindi elabora questa quantità di articoli che sono già più o meno organizzati secondo alcuni scenari che noi abbiamo già dato al provider, a Eco della Stampa, però di fatto apre questi articoli con una tecnica diciamo una professionalità che poi ognuna di queste persone è andata affinando nel tempo e riesce a cogliere diciamo i contenuti tanto da fare una selezione e appunto riuscire poi a comporre questa rassegna con una media di 80 articoli al giorno che selezioniamo e ne pubblichiamo online 25.000. Ne rassegniamo, ne leggiamo anche se velocemente 200-300.000 l'anno, insomma sono diciamo, però, complimenti effettivamente. Quindi avete acquisito ormai una sveltezza, perché diciamo da che ora si trovano riuscite? Sì, alle 9:30 è tutto online pubblicato. Effettivamente ci fa molto piacere sapere che ci sono tanti gruppi che li usano, radio locali. Tante volte insomma ci scrivono per dirci che la usano per fare anche loro degli approfondimenti o per fare a loro volta una rassegna. Ritengo che questa sia una delle funzioni fondamentali e una dei riconoscimenti maggiori che ci può venire insomma del lavoro che facciamo. Io infatti leggo qua sulla home page molte notizie che tra un'oretta daremo anche noi nel GR, quindi ecco, siete molto seguite. Sì. E utilizzate. Bene, benissimo. Poi diciamo spostandoci, perché la pagina è tripartita, abbiamo la denuncia e poi ancora accanto il commento. Esatto, anche questo l'abbiamo ripreso oggi da Femminismo a Sud, che è sicuramente una delle nostre fonti diciamo di informazione principale. Sito sì vivacissimo e pieno di contributi. Assolutamente, di narrativa politica diciamo assolutamente irrinunciabile. E poi abbiamo tante altre sezioni, quelle che raccolgono appunto gli appuntamenti delle donne nei territori, che sono anche appunto, io dico, sono donne nei territori, ma poi di fatto le organizzano diciamo tutti migranti, le organizzano ovviamente movimenti, pezzi di movimento LGBT e quant'altro. Poi abbiamo ovviamente gli editoriali di cui avevamo già parlato, che sono diciamo poi il perno del nostro numero, che ogni due settimane facciamo un numero di approfondimento nostro appunto con esperti, esperte che scrivono per Zero Violenza Donne, e poi attorno all'editoriale costruiamo anche poi tutto il resto dei contributi. Sì. Questo numero in particolare di queste due settimane era dedicato alla sessualità e al potere, e a questo proposito mi faceva piacere segnalare il pezzo di Renato Busarello, insomma sono tutti da leggere, però il pezzo di Renato Busarello di Bologna sull'Italia del patto omosociale. Lo ritengo un pezzo di analisi obiettivamente originale e importantissima per la situazione regressiva che viviamo in questo paese anche da questo punto di vista. E comunque sì, è interessante, c'è anche pezzi di altre, soldi, sesso e potere, di tempi Bianca della Pomeranzi, crisi, la scuola dei sentimenti, quindi si parla. Quindi diciamo l'editoriale, sì, un tema sviluppato con questi contributi. Scrivono apposta per voi o li prendete o l'uno e l'altro? No, scrivono apposta per noi e questo per quanto riguarda il numero che noi ogni due martedì lanciamo, e sempre in gemellaggio ovviamente con il martedì femminista e lesbico. Si aggiorna ogni martedì. Esatto. E poi però anche noi cerchiamo di essere cerchiamo di fungere da aggregatore, di prendere appunto come dicevo prima i pezzi di altri blog, di altri siti femministi, sempre rigorosamente citando la fonte ovviamente. A proposito di sezioni, mi premeva segnalare Zero Violenza Rom, che abbiamo inaugurato a marzo scorso grazie ad un progetto che abbiamo presentato e che quindi ci è stato finanziato dalla provincia di Roma, quando sono cominciati diciamo gli sgomberi selvaggi di Alemanno, le deportazioni dai campi Rom, appunto di tutte queste comunità Rom che si vedevano sbattere veramente alle 6 del mattino fuori da campi in cui vivevano ormai da anni, quindi senza nessuna reale alternativa se non quella di andare poi nei parchi. Abbiamo seguito insomma anche noi là. Sì, infatti, immagino, abbiamo sentito l'urgenza di aprire questa sezione e di poter far confluire quindi dei materiali di denuncia che potessero in qualche modo anche lì cercare di dare smuovere una un visibilità po', di smuovere a questa un po', questione esatto. Che in effetti sì, la coscienza certo, civile scompare dalle cronache o comunque sicuramente assolutamente questa, strumentalizzato, c'è un'analisi sì, di... infatti. Poi vedo anche, non so se vuoi continuare con c'è una parte per i centri antiviolenza, sì, come sì. Dicevi tu, donne anche nei territori, quindi una sorta di agenda. Sì, esatto, la rete dei centri antiviolenza ovviamente si trova in rete in moltissimi diciamo siti e blog nati ben prima di noi, ovviamente, però ritenevamo fondamentale pubblicarla anche noi. Devo dire che ci arrivano ogni tanto anche delle segnalazioni di donne o di ragazze che magari vedono nel sito la possibilità di un'intermediazione prima di arrivare a un centro antiviolenza, e quindi sì, sono molto importanti. Anche noi ci siamo passate quando facciamo le trasmissioni sui centri o sulla violenza, effettivamente chiamano, quindi è molto importante poi saperle indirizzare, perché ovviamente non siamo noi a poterle accogliere, però sì, abbiamo notato anche esatto. Noi che richiama molto. Sì, sì, è veramente una piccolissima funzione che uno può svolgere e che però ritengo assolutamente diciamo sì. Utile e doverosa. Sì, sì, ed è abbastanza impressionante, perché effettivamente questa è un'esperienza che ha attraversato molti dei luoghi, diciamo, pubblici di presa di parola. Ricordo anche un presidio sotto il tribunale, ci avvicinarono delle donne, era un presidio contro la violenza, ci avvicinarono proprio delle donne con questo problema, ebbero dei colloqui con le compagne dei centri, e per fortuna c'erano, insomma, è importante averlo nel assolutamente. Proprio... spazio. E poi vabbè, qui appunto in home page ci avete anche un tema da salute come diritto. Sì, salute come diritto, che abbiamo aperto anche questa sezione da poco con, tra parentesi, Ivan Cavicchi, che è uno dei maggiori esperti di sistema sanitario nazionale, e sono molto felice di questa collaborazione, perché quest'anno cercheremo di fornire sempre più spunti di analisi su questo tema, quest'anno smantellando ovviamente il sistema sanitario nel silenzio totale. Questo si riflette moltissimo sulla salute di tutti, in particolare su quella delle donne, e poi riteniamo di affrontare anche la questione della cultura della salute mentale in relazione anche ai percorsi di violenza, perché diciamo è un altro tema che sta venendo fuori e che si ritrova anche nella denuncia che è online, appunto a cura di Laura Edoati, che ci sono più e più donne che all'interno che quando vanno nei centri antiviolenza richiedono un supporto psicologico e un aiuto in questo senso, per avere la forza di ripartire da sé. Io lo ritengo molto importante, è un tema di solito di cui non si parla facilmente, è un po' un tabù, ma io sì, ritengo come tutte le contraddizioni, come tutte le questioni diciamo difficili, invece questo è proprio il momento migliore invece per affrontarle, per aprirsi e tematizzare nuove possibilità e nuove prospettive. Va bene, allora appunto il sito è molto ricco, poi andatevelo a vedere, il commento, come dicevamo, è quelle che muoiono di taglio e cucito, e lo ricordiamo ancora, insomma le quattro lavoratrici e una ragazza di 14 anni morte a Bari per il crollo di un edificio, e vabbè, e poi ovviamente... Non abbiamo detto molto il mio preferito, che è Donne nei territori, dove si trovano gli appuntamenti di lotta e culturali e di azione di tutte le donne in giro per l'Italia. Quello è essenziale per sapere che cosa succede intorno a noi. Scrivete di tutti quanti gli appuntamenti che organizzate, delle assemblee pubbliche, insomma di tutti quanti quei luoghi che vogliono essere attraversati. E io poi approfitto per fare un ringraziamento, perché la verità è che tutta questa macchina si tiene grazie alla Tavola Valdese, che finanziato, che continua per il terzo anno, ha deciso di finanziare in maniera del tutto autonoma, ha deciso di finanziare il progetto, e senza il quale noi non potremmo assolutamente andare avanti, perché i costi sono comunque abbastanza elevati di questo progetto. E però ci fa piacere che la Tavola Valdese creda in noi, anche perché diciamo che c'è poi una coincidenza dei temi, che sono un po' gli stessi su cui loro fanno campagna attiva. Mm-hmm. E quindi questo proprio veramente lo faccio con molto spassionatamente. Va bene. Senti, però ricordiamo anche che si può sostenere il sito, anche appunto tutte quelle che ne usufruiscono, lo leggono, pensano che il progetto insomma sia valido. C'è una campagna di ovviamente sottoscrizione permanente, possiamo sottoscrizione permanente, sì, ma anche del tutto, insomma, voglio dire, libera certo. E autodeterminata, nel senso uno può anche decidere di no e però continuare a guardare. Certo, non viene tutti i giorni, a noi ci fa piacere lo stesso, come... anzi ci mancherebbe. Però sì, c'è la possibilità di donare. In realtà noi abbiamo fissato questa cifra, appunto, un po' di riferimento di 60 euro, però se anche qualcuno volesse donarne 5, a noi veramente farebbe ugualmente piacere, apprezzeremmo tantissimo lo sforzo. Va bene. E c'è pure l'aiuto materiale nell'invio di lettere, articoli, nella segnalazione, insomma, testimonianze, potete contributi collaborare. Senz'altro, molto volentieri. Va bene. Monica, grazie. Grazie. Noi proseguiamo la maratona dell'agenda. Grazie, però a voi, insomma, buon lavoro a voi. Sentiamoci presto, come sempre. Siamo sempre in contatto. Ciao. Ciao, ciao, ciao. My skin is brown. My hair is platinum blonde today. Burgundy tomorrow. My nails is long. I know no sorrow cause ain't nothing I care to know but where my check so I can get my tics for the Jay-Z show.